Blu Radio Veneto. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Sulla scia di quanto ci ha raccontato la settimana scorsa Alessandra a proposito del corso di formazione per catechisti inerente la carità, riprendiamo proprio questo filone e ci aiuta in questo il canale YouTube di Caritas Padova, all'interno del quale ci sono diverse proposte che condividiamo con voi in questo spazio settimanale. Partendo dalla cosa forse più semplice e più complicata, cioè la definizione di carità. Che cos'è la carità? Che cos'è la verità? Si domandava Pilato nel corso del processo a Gesù. Qui la domanda appunto è stata rivolta ad alcuni esperti che hanno tentato di rispondere nel corso di questi incontri di formazione. Carità è, puntini in sospensione, risponde per primo il professor Luigi Gui, responsabile della scuola di formazione sociopolitica della diocesi di Padova. L'ambivalenza della parola carità nasce da questo gesto unilaterale, che poi si è istituzionalizzato, di qualcuno che si adopera per qualcun altro. Perché dico unilaterale? Perché l'implicito è che non è richiesta restituzione. Questo gesto unilaterale come si muove sul piano umano? Si muove da un'attrazione che qualcuno percepisce rispetto a qualcun altro, qualcosa di altro da me che mi attrae, cioè diventa l'oggetto del mio interesse. Mi volgo in quella direzione perché quella direzione è una direzione ulteriore a me e che mi spinge ad incontrare. L'altro mi attrae appunto da sbilanciarmi, cioè farmi uscire dal mio equilibrio per andare oltre, altro da me, come è per il genitore che si occupa del figlio e che si scomoda molto, è trascinato fuori dal suo equilibrio perché è attratto dal preoccuparsi e dall'occuparsi. Questo gesto unilaterale, come ho detto, è vero che da un lato non implica una restituzione simmetrica, cioè nel momento in cui si mette in atto il gesto di carità non vi è l'implicito dello scambio. Però la cosa interessante è che non è privo di reciprocità. Se fosse privo di reciprocità, il rischio del gesto di potere sarebbe maggiore. Quindi non vi è scambio simmetrico, non vi è un'equivalenza implicita, ma vi è una reciprocità. Il mio sbilanciamento verso l'altro, nel gesto di carità, che vuol dire l'interesse di te, ha una forte restituzione nella reciprocità, solo che non è la restituzione dello scambio. È in qualche modo la rigenerazione di sé insieme all'altro. Qui c'è la dimensione generativa, cioè la carità rigenera. Quindi per certi versi potremmo dire che la bilancia torna in pari, perché anche chi compie questo gesto di carità ottiene una restituzione per sé molto abbondante, anzi molti che fanno esperienza di carità dicono che quasi quasi ricevono di più loro di quanto danno. Cioè nella dimensione della carità io compio un gesto che alla fine mi restituisce molto. Ed è una restituzione che non sta interamente in mano né a chi dà né a chi riceve. Quindi vi è quello che alcuni chiamano un'eccedenza. No, si genera qualcosa che è ulteriore alle potenzialità delle singole persone che stanno in relazione. Questo gesto è un gesto che si espone al rischio di non solo di non ottenere in cambio, ma questo sta dentro l'agire caritativo, ma di essere ucciso tra virgolette sul piano fisico o sul piano relazionale. Quindi è vero che la carità vive nella reciprocità, ma si espone al rischio che questa reciprocità non abbia luogo perché l'interlocutore non risponde. E in molte occasioni io ho sperimentato questa strana bipolarità tra il desiderio di andare oltre la situazione, nel migliorare la condizione dell'altro, nel realizzarsi verso mete attese che ancora non ci sono, la carità e la spinta anche a cambiare, non è solo una reciprocità sentimentale, è proprio la spinta a modificare la realtà che stiamo vivendo nella sua concretezza, certe volte appunto nella soddisfazione di un bisogno o nella realizzazione di un progetto o nella modificare la concretezza delle risorse. Quindi un desiderio di potenza in fondo. E al contempo l'altro polo è la sperimentazione del limite. E la carità certe volte sta in mezzo tra questo desiderio di cambiare, di andare oltre, di poter di più di ciò che si tocca miseramente e la miseria del nostro limite. Allora, dentro questa cosa qua è proprio il Signore, nel senso che è la dimensione creaturale, diciamo così, che mi pacifica un po', perché il mio desiderio di potenza, poniamo di fronte anche al disagio, al disastro, alla sofferenza di alcuni, e non mi lascerebbe disorientato nel gesto di carità fino a farmela scappare di mano, se non facessi riposare il mio senso del limite in qualcosa, in qualcuno che mi trascende, cioè che al di là del mio gesto va oltre. Questo in una dimensione di rapporto con Dio, e talvolta molto concretamente anche nella dimensione del rapporto con gli altri. Siccome non sono solo, dove non arrivo io arriverà qualcun altro, e dove non ci arrivo da solo ci possiamo provare insieme. Quindi ecco, questa dimensione del poter superare il limite aumentando la nostra potenza, riducendo la presunzione di onnipotenza grazie al rapporto con altro da sé, ecco, questa mi sembra una possibilità di vivere l'intensità della carità senza essere schiacciati dal nostro limite. Era il professor Luigi Gui, responsabile della FISP, Scuola di Formazione e l'Impegno Sociopolitico della Diocesi di Padova. Nella sua definizione di che cos'è la carità, altre voci, altre testimonianze ve le proporremo nelle prossime settimane. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.